infantile non seppe foggia. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Il mio cognome era Pirrip, il nome Philip. Il mio linguaggio infantile non seppe foggiare con i due nomi nulla di più lungo o più chiaro di Pip. Così presi a chiamarmi Pip e il nome mi rimase. Che Pirrip fosse il cognome di mio padre lo affermo in base alla sua pietra sepolcrale e da mia sorella, la signora Gargery, moglie di un fabbro. Poiché non vidi mai né mio padre né mia madre, né alcun loro ritratto, essi vissero assai prima dell'era della fotografia, le mie prime supposizioni sul loro aspetto derivarono, per strano che possa sembrare, proprio dalle loro pietre sepolcrali. La forma delle lettere su quella di mio padre mi suggerì la strana idea che egli fosse un tipo tarchiato, corpulento, con i capelli neri e ricciuti. Dai caratteri e dallo stile dell'iscrizione «ed inoltre Giorgiana, moglie del suddetto», trasse la conclusione infantile che mia madre fosse lentiginosa e malaticcia. A 5 piccole losanghe di pietra, ciascuna lunga circa 50 centimetri, disposta in fila regolare accanto alla loro tomba, e consacrate alla memoria di 5 miei fratellini, che rinunziarono troppo presto a far la loro parte nella grande lotta per l'esistenza, devo la convinzione serbata religiosamente che tutti quanti fossero nati supini, con le mani ficcate nelle tasche dei pantaloni, e che non le avessero mai tirate fuori nella loro esistenza quaggiù. Il nostro era un paese paludoso, che si stendeva lungo un fiume, più o meno a 20 miglia dal mare, a seconda delle sinuosità del fiume, e mi sembra di avere avuto la prima vivida percezione del creato in un memorabile pomeriggio freddo e umido, verso sera. Fu allora che scopersi che quel lugubre posto invaso da ortiche era il cimitero e che fu Philip Pirrip, defunto di questa parrocchia, come pure Giorgiana, moglie del suddetto, erano morti e seppelliti, e che Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobias e Roger, figli del suddetto, erano ugualmente morti e seppelliti, e che la piatta e buia distesa oltre il cimitero, intersecata da canali, monticelli di terra e barriere, dove qua e là pascolavano pochi animali, era la palude, e che la bassa linea plumbea al di là del fiume e la lontana zona selvaggia da cui il vento soffiava violento era il mare, e che quel fagottello scosso da brividi, sempre più spaventato ed ormai in lacrime, era Pip. «Fai silenzio!» gridò una voce terribile mentre un uomo si rizzava fra le tombe a fianco del porticato della chiesa. «Stai zitto, demonio, o ti taglio la gola!» Un uomo spaventoso, dal rozzo vestito di un grigio sporco e con un grosso ferro alla gamba. Un uomo senza cappello, con le scarpe rotte ed uno straccio legato attorno al capo. Un uomo che era stato immerso nell'acqua, invischiato dal fango, azzoppato da pietre, ferito da sassi aguzzi, punto da ortiche e scorticato da rovi, che zoppicava e tremava e guardava e ringhiava e batteva i denti mentre mi afferrava per il mento. «Oh, non mi tagliare la gola, signore!» invocai terrorizzato. «Vi prego, non fatelo, signore!» «Dici come ti chiami?» disse l'uomo. «Svelto!» «Pip, signore!» «Ripetilo!» disse l'uomo guardandomi fisso. «Parla forte!» «Pip! Pip, signore!» «Mostraci dove stai!» disse l'uomo. «Sputa fuori il posto!» Gli indicai il punto dove era il nostro villaggio, sulla bassa ripa fra gli ontani ed altri alberi scapezzati, a un miglio o poco più dalla chiesa. L'individuo, dopo avermi considerato un istante, mi mise con la testa all'ingiù e mi svuotò le tasche. Non v'era altro che un pezzo di pane. Quando la chiesa si rimise dritta, perché il suo gesto era stato così pronto e violento da capovolgerla davanti a me, e vidi la guglia sotto i miei piedi, quando la chiesa si rimise dritta, dico, mi ritrovai tremante sopra un'alta pietra sepolcrale, mentre egli mangiava voracemente il pane. Cagnetto, disse leccandosi le labbra, che guance grasse hai. Immagino che fossero grasse, benché a quel tempo io fossi piccolo per la mia età, e non robusto. Che sia dannato se non potrei mangiarle, disse ancora l'uomo scuotendo minaccioso il capo, e se non ho proprio una mezza voglia di farlo. Gli espressi la mia fervida speranza che non lo avrebbe fatto, e mi tenni ben stretto alla pietra tombale su cui mi aveva messo, un po' per non cadere, e un po' per trattenermi dal piangere. Ora sta a sentire, disse l'uomo. Dov'è tua madre? Lì. Trasalì, fece pochi passi correndo, si fermò e mi guardò al di sopra della spalla. Lì, signore, spiegai timidamente. Ed inoltre Giorgiana. È quella la mia mamma. Ah, esclamò tornando indietro. E tuo padre è quello accanto. Sì, risposi, è lui, defunto di questa parrocchia. Ah, brontolò riflettendo. E con chi vivi? Supponendo che io ti permetta gentilmente di continuare a vivere, ciò che non ho ancora ben deciso. Con mia sorella, moglie di Joe Gargery, il fabbro, signore. Il fabbro, dici? E si sporgò la gamba. Dopo aver più volte guardato cupamente la sua gamba e me, si avvicinò alla mia pietra sepolcrale. Mi afferrò per tutte e due le braccia e mi piegò all'indietro, in modo che i suoi occhi mi dominavano ferocemente dall'alto e i miei fissavano i suoi dal basso, senza possibilità di scampo. «Ora vada bene», disse, «poiché si tratta di vedere se potrai continuare a vivere. Sai cos'è una lima?» «Sì». «E sai cosa sono dei viveri?» «Sì». Dopo ogni domanda mi piegava un poco di più, così da darmi una crescente sensazione di impotenza e pericolo. «Mi procuri una lima?» E ancora mi piegò. «E mi procuri dei viveri?» Mi piegò di più. «Mi porti tutto quanto?» Mi piegò ancora. «O ti strapperò cuore e fegato?» E mi piegò ancora di più. Ero tanto atterrito e stordito che mi afferrai a lui con ambo le mani e dissi: «Se foste così gentile da permettermi di stare dritto, signore, forse avrei meno il capogiro e potrei ascoltarvi meglio». Mi fece fare una tremenda giravolta, sì che la chiesa balzò in cima alla sua ventarola. Poi mi rimise dritto sulla pietra, tenendomi per le braccia, e continuò a parlare in questi termini spaventosi. «Domattina all'alba mi porterai la lima e i viveri. Mi porterai tutto quanto a quella vecchia batteria laggiù. Guai a te se ti azzarderai a dire una parola o a fare un cenno sul fatto che hai visto una persona come me, o anche solo una persona. Se non farai ciò che ti dico, se in qualsiasi particolare, anche minimo, non seguirai le mie parole, cuore e fegato ti saranno strappati, arrostiti e mangiati. Ora, io non sono solo come tu puoi credere. C'è un giovanotto nascosto qui con me, in confronto al quale io sono un angelo. Quel giovanotto sente quello che ti sto dicendo. Quel giovanotto ha un suo modo segreto, particolare, di far fuori un ragazzo e mangiarne cuore e fegato. E inutilmente un ragazzo tenta di sottrarsi a quel giovanotto. Un ragazzo può chiudere a chiave la porta, starsene al caldo nel suo letto con le coperte ben rimboccate, tirarsi le coperte sulla testa, può credersi al riparo e al sicuro. Ma quel giovanotto riuscirà a giungere fino a lui e lo caverà fuori. In questo preciso momento e con grande difficoltà cerco di impedire a quel giovanotto di farti del male. Con molta fatica lo trattengo lontano dalle tue budella. Beh, che ne dici? Dissi che gli avrei procurato la lima e quel po' di viveri che mi fosse riuscito, e che sarei venuto a portarglieli alla batteria la mattina dopo, di buon'ora. Di che Dio mi faccia cadere morto se non lo farò. Ricordati di quel giovanotto e fila a casa. Buonanotte, signore, balbettai. Sarà buona davvero, disse scrutando attorno a sé la piana fredda ed umida. Vorrei essere una rana o un'anguilla. e in pari tempo con tutte e due le braccia si cinse il corpo scosso da brividi, stringendoselo come per tenerlo insieme, e si allontanò zoppicando verso il basso muretto della chiesa. La palude appariva una linea orizzontale lunga e scura, e anche il fiume altro non era che una linea orizzontale, ma non così ampia né così nera. E il cielo era un tessuto di lunghe irose strie rosse e dense strie nere framischiate. Sul margine del fiume distinguevo confusamente le sole due cose, nere anch'esse, che in tutto il quadro spiccassero verticalmente. Una era il segnale luminoso che guidava i marinai nella rotta, simile ad una botte senza cerchi, infilata in cima ad un palo. L'altra, una forca, da cui pendevano alcune catene che una volta erano servite per un pirata. L'uomo si diresse zoppicando verso quest'ultima, quasi fosse il pirata tornato in vita per venire ad impiccarsi una seconda volta. Nel pensarci, mi sentii davvero sconvolto. Cercai con lo sguardo l'orrendo giovanotto, senza trovarlo nella traccia. E di nuovo, atterrito, corsi a casa senza fermarmi. La coscienza diventa qualcosa di terribile quando si desta ad accusare un uomo o un ragazzo. Ma quando poi, nel caso di un ragazzo, quel segreto fardello si assomma ad un altro segreto fardello celato nella gamba dei calzoni, diventa, lo posso attestare, un vero supplizio. La consapevolezza che tra poco avrei derubato mia sorella. Non mi venne mai in testa che avrei derubato anche Joe, perché non avevo mai pensato a nessun oggetto di casa come appartenente a lui. La consapevolezza, unita alla necessità di tenere sempre una mano sul mio pane e burro che avevo rubato, mentre stavo seduto o mi aggiravo in cucina per qualche piccolo incarico, quasi mi fecero uscire di senno. Poi, mentre il vento della palude faceva sfavillare e crepitare il fuoco, mi parve di udire là fuori quell'uomo con i ferri al piede che mi aveva costretto a giurare il segreto, gridare che non poteva e non voleva rimanere a digiuno sino all'indomani, ma intendeva essere sfamato subito. Si era alla vigilia di Natale e da me spettava rimestare il budino per l'indomani con una bacchetta di rame. Dalle 7 alle 8 della pendola. Cercai di farlo con quel mio fardello sulla gamba che mi portava a ripensare all'uomo con il peso della sua gamba. Ma mi avvidi che l'operazione era complicata dal fatto che ogni mia mossa tendeva a far uscire il pane e burro dalla caviglia. Fortunatamente riuscii a svignarmela e a depositare quella porzione della mia coscienza nella mia camera in soffitta. «Senti!» dissi dopo aver finito di rimestare, mentre mi concedevo una scaldatina finale nell'angolo del camino, prima di essere mandato a letto. «Non era il cannone, Joe?» «Già», disse lui. «Un altro forzato che ha preso il largo». «Cosa vuol dire, Joe?» Mia sorella, che si assumeva sempre il compito di dare spiegazioni, precisò con voce rude: «Scappato! Scappato!» somministrandomi la definizione come se si trattasse di acqua di catrame. E mentre lei rimaneva seduta il capochino sul cucito, formulai con la bocca le parole «Cosa è un forzato?» dirette a Joe. Ed egli mi rispose allo stesso modo, con una frase così elaborata, che non potei ricavarne che una sola parola, pip. «Un forzato ha preso il largo iersera», disse ancora Joe ad alta voce, «dopo il cannone del tramonto, e hanno sparato per dare l'allarme. Ora si direbbe che diano l'allarme per un altro». «Chi sta sparando?» «Al diavolo questo ragazzo!» interruppe mia sorella gettandomi una guardataccia al di sopra del suo lavoro. «Non fa altro che domande. Non far domande e nessuno ti dirà bugie». Non mi pareva molto gentile nei suoi stessi riguardi, sottintendere che avrebbe potuto dir bugie, sia pure in risposta alle mie domande. Ma mia sorella non era mai stata gentile, se non in presenza di altre persone. «Senti», domandai a mia sorella come ultima risorsa, «se non ti dispiace troppo, vorrei tanto sapere da dove viene questa sparatoria». «Che Dio lo benedica!» Ella esclamò nel tono di chi vuole significare esattamente il contrario. «Dal pontone!» «Ah!» esclamai guardando Joe. «Il pontone!» Joe tossicchiò in segno di rimprovero, come per dirmi «te l'avevo detto». «E per piacere, cos'è un pontone?» «Ecco cosa succede con questo ragazzo!» protestò mia sorella indicandomi col lago e crollando il capo nella mia direzione. «Rispondete ad una sua domanda e ve ne farà subito dopo una dozzina. I pontoni sono vecchie navi che servono da prigione e si trovano subito al di là della marcita». Era questo il nome che davamo alla palude dalle nostre parti. «Chissà che tipo di gente mettono in queste navi e perché ve le mettono?» dissi tenendomi sulle generali, rassegnato a non aver risposta. Ma era troppo per la moglie di Joe, che si levò immediatamente. «Te lo dirò io, ragazzino», disse. «Non ti ho allevato con le mie mani proprio io perché tu facessi morire la gente a furia di tormentarla. Se così fosse dovrebbe essermi imputato a biasimo e non a lode. La gente viene messa in queste prigioni perché uccide e ruba e truffa e commette ogni sorta di cattive azioni. E tutti hanno cominciato col fare domande. E adesso svelto a letto!» Non mi era mai stata concessa una candela per farmi luce nell'andare a letto. E mentre salivo al buio con la testa che ronzava, poiché il ditale di mia sorella ci aveva tamburellato sopra, quale accompagnamento alle sue ultime parole, avevo piena e paurosa coscienza dell'indiscutibile vantaggio che quella galera, tanto vicina, rappresentava. Chiaramente, ero avviato a finire lì. Avevo incominciato col fare domande e stavo per rubare in famiglia. Seppure riuscii a dormire un poco quella notte, fu soltanto per sognare che andavo alla deriva lungo il corso del fiume, trascinato da una forte marea primaverile, verso quella nave prigione. Mentre passavo accanto al patibolo, un pirata spettrale mi invitava «col megafono a scendere a terra e a farmi impiccare lì, subito, senza por tempo in mezzo!» Avevo paura di addormentarmi, anche se ne avessi avuto voglia, perché sapevo che al primo chiarore mattinale avrei dovuto far man bassa nella dispensa, dove non era possibile penetrare di notte, poiché allora non v'era modo di far luce facilmente se non battendo l'acciarino contro la pietra focaia, con un rumore uguale a quello dello stesso pirata quando faceva tintinnare le sue catene. Non appena la grande cappa di velluto nero, fuori della mia finestra, si chiazzò di grigio, mi alzai e scesi abbasso. Ed ogni tavola di legno sul mio cammino, ed ogni fessura in ogni tavola gridavano «Fermate il ladro e alzatevi, signora John!» Nella dispensa, assai più rifornita del solito, data l'epoca, fui sgomentato da una lepre, appesa per le gambe, che ebbi l'impressione di aver sorpreso a strizzarmi l'occhio, mentre in parte le voltavo le spalle. Non ebbi tempo per constatarlo. Non ebbi tempo per fare una scelta, non ebbi tempo per nulla, perché non avevo tempo da perdere. Rubai un poco di pane, un po' di crosta di formaggio, un mezzo barattolo di carne tritata che legai nel mio fazzoletto insieme alla fetta della sera prima, un poco di acqua vite da un recipiente di pietra, che travasai in una bottiglietta di vetro, già usata in segreto nella mia camera per preparare quella bevanda inebriante, che è lo sciroppo di liquirizia. Diluendo il contenuto d'onda della ricicinerchia di fregola ancora hot da una brocca nell'armadio di cucina, un osso con poca carne attaccata e un bel pasticcio di maiale, compatto e tondo. Stavo quasi per andarmene senza il pasticcio, ma mi venne la tentazione di salire sopra uno scaffale per vedere che mai fosse stato riposto con tanta cura in un piatto di terraglia ben coperto in un angolo. Così scopersi il pasticcio e lo presi, nella speranza che, non essendo destinato ad essere usato subito, per qualche tempo non ne sarebbe stata avvertita la mancanza. Nella cucina si apriva una porta di comunicazione con la fucina. Girai la chiave, alzai il chiavistello e presi una lima fra gli utensili di Joe. Poi richiusi tutto com'era. Apersi la porta da cui ero entrato la sera prima nel tornare di corsa a casa, richiusi pure quella e mi precipitai in direzione della palude nebbiosa.